Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Allora, quello di ridare la vista ai ciechi è diciamo un'attività che storicamente rientra nella categoria dei miracoli, però potrebbe non essere così ancora per molto. Una ricerca del Dipartimento di Neuroscienze e del CNST, Center for Nanoscience and Technology, entrambi dell'Istituto Italiano di Tecnologia, ha conseguito, diciamo così, un risultato veramente di grande rilevanza verso la realizzazione di una vera e propria retina artificiale, in grado di sostituire quella naturale distrutta o danneggiata. Parliamo potenzialmente, ma diciamolo non domani, ecco, di realizzare una protesi in grado di restituire la vista a persone con patologie o che hanno subito traumi per i quali oggi non c'è alcun rimedio. Basta ricordare, insomma, anche solo il tema del diabete. Ci facciamo raccontare tutto da Guglielmo Lanzani, che è coordinatore del CNST. Buonasera Lanzani. Buonasera a voi. Senta, allora Lanzani, intanto per cominciare mi sembra il caso di ricordare in sintesi come funziona la retina. Sì, beh, la retina è sicuramente il sensore più sofisticato che noi abbiamo, è molto più che un semplice rivelatore di luce, è un sistema che fa anche un processo del segnale e manda al cervello già delle informazioni che sono state rielaborate, quindi è molto complesso, è fatto una serie di strati di cellule neuronali che hanno sul fondo delle cellule molto particolari, fotorecettori, che sono uniche in natura, sono cellule che sono sensibili alla luce e quindi che rispondono alla luce con un segnale bioelettrico. Sono dei trasduttori, diciamo, se nel mondo dell'elettronica li diremo che sono dei trasduttori che rilevano un segnale, in questo caso luminoso, e lo traducono in un segnale equivalente o quasi, insomma, in questo caso elettrico. No? È interessante notare che c'è una molecola che fa questo e che inizia questa cascata complicata di processi, e questa molecola è molto simile a metà beta-carotene, quindi un po' è vero che mangiare le carote fa bene alla vista. E le molecole che danno i colori in natura sono poi le stesse che ci permettono di vedere i colori. E quindi la retina ha questi fotorecettori, noi abbiamo 120 milioni di bastoncelli che servono per vedere, diciamo, al buio, alla luna. Vedono il bianco e il nero i bastoncelli, no? Vedono esattamente, solo in bianco e nero, perché c'è un tipo solo di fotorecettore, e funzionano quando appunto al chiaro di luna. Cioè tipicamente sono saturi quando noi guardiamo in giro nella luce normale. E poi abbiamo i coni, sono di tre tipi, che servono invece per vedere i colori, cioè quello che ci sono certo, nel rosso, nel verde, nel blu, e questo viene poi ricostruito dal cervello con la sensazione, dandoci questa sensazione di colore. Allora, quello che succede purtroppo è che in alcune malattie come la retinite pigmentosa i fotorecettori degradano, sono danneggiati, a un certo punto scompaiono, smettono di funzionare. E sono malattie quindi degenerative che portano a un certo punto alla cecità completa. A quel punto non c'è più niente che si possa fare se non l'idea di un impianto. Quello che noi abbiamo fatto è utilizzare dei materiali organici, quindi molto a base di carbonio, molto simili a quelli naturali, per sostituire i fotorecettori danneggiati. In realtà il nostro sistema è un film continuo, quindi è una piccolo disco che è coperto da questo polimero fotoattivo, che peraltro abbiamo preso dalle celle fotovoltaiche. Certo. È un polimero che riceve la luce e la trasforma in un segnale elettrico. E abbiamo scoperto che questo polimero riesce a trasformare la luce in un segnale bioelettrico rivelato dalle cellule. Che le cellule nervose riescono a recepire, no? E quindi a quel punto possono trasmetterlo al cervello, che forma l'immagine nella nostra mente, diciamo così. Quindi in un caso come per esempio la retina pigmentosa, in cui il sistema, diciamo, di circuiteria, no? Il nervo ottico funziona, noi andiamo a sostituire il fotorecettore danneggiato e dovremmo essere in grado di restituire la vista. E in effetti abbiamo testato la nostra idea su degli animali da laboratorio che sviluppano la malattia perché sono modificati geneticamente, e abbiamo prove che non solo ritorna la sensibilità alla luce, ma persino l'acuità visiva, cioè la capacità di vedere contrasti. Di formare immagini, che non è scontato tra percepire luce o buio o formare anche delle immagini. Ora, no? Stiamo parlando di animali di laboratorio che ovviamente non si esprimono e quindi io non voglio dire cose di cui non posso essere sicuro. Diciamo che abbiamo delle indicazioni che effettivamente la nostra protesi, almeno negli animali, restituisca la capacità di vedere come vedono quasi in maniera naturale questi animali, che peraltro ci vedono male, sono animali notturni. Ora bisogna fare quindi la fase successiva, che sarà sperabilmente testare sull'uomo la, okay, la nostra... Ecco, propria. Quindi questo volevo chiederle, ecco, questo prima di tutto, perché domani non comincino a, a farvi telefonate aspettandosi qualcosa che oggi non si può ancora avere, però siamo già al punto in cui si potrebbe cominciare una sperimentazione clinica? Mi sta dicendo questo? Noi ci stiamo muovendo in questa direzione e questo vuol dire che stiamo lavorando per avere le, i permessi del Ministero per fare una, un primo test clinico. Quindi stiamo lavorando in questa direzione. Però io spero nel giro di, diciamo, un paio d'anni di arrivare a testare sull'uomo il nostro dispositivo. Diamo, io quello che dico sempre è che abbiamo da dare una speranza, non un'illusione. La speranza è che si possa arrivare a, a curare anche questo tipo di patologie. È proprio il caso di parlare di illusioni, o no, in questo caso. Va bene, grazie. Grazie Guglielmo Lanzani. Prego, grazie a voi. Anche per questa sera è tutto. Ci diamo appuntamento come sempre a domani. Buona serata a voi.